Perfetta notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. E Padrini è un film. Papà mio lo piaceva quel film e lo piaceva anche la musica. E se lo piaceva anche la musica, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, a proposito di effetto nota, che effetto vi fa sentire in casa Monica la figlia di Vittorio Casamonica? Vi ricordate quel faraonico funerale a Roma il 20 agosto scorso che ha scatenato tante polemiche? Adesso la nuova polemica che riguarda casa Monica è quella della partecipazione ieri della figlia, per l'appunto, che avete sentito, e del nipote di Vittorio Casamonica, del defunto, a Porta da Vespa, quindi bufera su Vespa oggi da parte del PD romano, il PD in genere, il partito, il Movimento 5 Stelle che parlano di SL, che parlano di uno spettacolo vergognoso, insomma, che Vespa non doveva invitare e rinfocolare di nuovo questa polemica sui casa Monica, mentre per esempio c'è Forza Italia che dice giù le mani da Vespa, e Vespa che si difende dicendo io faccio informazione, questo è un servizio pubblico, quindi faccio il mio mestiere. Che ne pensate di questa vicenda, di questa polemica? Ritenete che appunto sia diritto di cronaca e di informazione quello di invitare anche i casa Monica, per esempio una trasmissione sulla Rai come Porta a Porta, oppure siete d'accordo con chi ha lanciato critiche di fuoco nei confronti di Vespa dicendo che insomma non si continua a rinfocolare sfregandosi le mani una polemica del genere invitando nuovamente un clan accusato di varie attività criminali? Le vostre opinioni come sempre sulla pagina Facebook di Effetto Notte, che lo sapete lì, è giorno e notte sempre per voi, oppure gli sms al 349-238-6666, lo ripeto il numero 349-238-6666 per gli sms, o se no la pagina Facebook di Effetto Notte per dire se ritenete che sia stato opportuno invitare Casa Monica a Porta a Porta, oppure no. Questo è uno dei temi di cui parleremo stasera, e dovremo raggiungere causi il vice sindaco di Roma, che aveva dato la disponibilità questa sera per Effetto Notte, poi ha detto ma c'ho una riunione improvvisa, vediamo se riesco a finire in tempo, speriamo di sì, perché ci piacerebbe appunto averlo qui a Effetto Notte. Questo più tardi. Torneremo naturalmente sulla questione immigrazione, viste anche le novità. Da una parte il Presidente della Commissione Europea, che oggi all'Europarlamento ha detto bisogna elaborare delle quote obbligatorie, dobbiamo aprirci ai migranti, e dall'altra la Danimarca che si isola per fermare i profughi e sta bloccando treni e autostrade per la Germania. E poi il cinema con Venezia, lo sport con vari successi oggi italiani, dal basket al tennis al ciclismo, insomma un sacco di roba. Non staccatevi per nessun motivo da Effetto Notte fino a, come sempre, alle 22. Adesso vi faccio un riassunto come al solito all'inizio della giornata. Migranti, la Danimarca si isola per fermare i profughi, bloccati treni e strade per la Germania. Casa Monica in TV, polemiche contro Bruno Vespa, lui replica il servizio pubblico, faccio il mio mestiere, il Campidoglio accusa, è un oltraggio a Roma. Ripartono i consumi, mai così da 5 anni, lo dice un'indagine di Confcommercio. Apple a San Francisco presentati i nuovi iPhone iPad. Elisabetta, regina da record, oggi supera i 63 anni, 7 mesi e 2 giorni sul trono della Trisavola, la regina Vittoria. Cinema a Venezia, che anche il film di Laurie Anderson per il compagno Lou Reed. Per lo sport, ancora show dell'Italia, gli europei di basket e di Berlino. Gli azzurri battono la Germania col punteggio di 89-82. Per il tennis, a US Open, Pennetta in semifinale. Partiamo sempre quindi dagli sviluppi dell'emergenza migranti, dai vari fronti che man mano si aprono e si chiudono, a proposito del nuovo muro, diciamo così, simbolico della Danimarca. Mentre infatti oggi il Presidente, vi dicevo, della Commissione Europea Juncker ha proposto all'Europarlamento delle quote obbligatorie per tutti i paesi che fanno parte dell'Unione e ha condannato i muri che dice non fermeranno la massa dei migranti, la Danimarca intanto ha bloccato la strada ai profughi, le ferrovie hanno sospeso a tempo indeterminato i collegamenti con la Germania, mentre la polizia ha chiuso per ragioni di sicurezza una superstrada nel nord del paese. Pugno duro della Danimarca di fronte all'arrivo dei migranti. Le ferrovie del paese, su disposizione delle autorità, hanno deciso di sospendere a tempo indeterminato il traffico ferroviario con la Germania. Bloccata per ragioni di sicurezza, secondo quanto reso noto dalla polizia danese, anche una superstrada nel nord del paese, attraversata da centinaia di persone a piedi dirette in Svezia, lungo un percorso di circa 300 chilometri. I migranti, almeno 300, compresi donne, bambini e anziani, erano fuggiti da una scuola dove erano stati collocati in attesa di registrazione nella città di Padborg. La maggior parte dei profughi provenienti dalla Germania, infatti, non vogliono rimanere in Danimarca, ma proseguire il viaggio verso la Svezia, che ha norme di asilo meno rigide. E sull'isola di Lolland, i migranti in arrivo in una scuola adibita ad ostello sono stati presi a sassate, danno meglio precisati xenofobi. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Un altro punto difficile è quello dei Balcani. Al confine con la Bulgaria prosegue il viaggio di Radio 24 lungo le rotte dei migranti. Sulle quote proposte da Juncker sono diversi i paesi, ci sono paesi contrari nell'Unione Europea o scettici come appunto la Bulgaria. Il vice ministro dell'interno Filip Gunev risponde così alle indicazioni di Bruxelles, quelle appunto di Juncker. In un'intervista a Radio 24 l'ha incontrato a Sofia la nostra inviata Raffaella Calandra. La posizione di principio del governo bulgaro della Bulgaria è quello di una divisione solidale. Ci sono però delle preoccupazioni del governo bulgaro rispetto al modo con cui questa idea è stata proposta. La prima riguarda le modalità di calcolo sulla distribuzione eventuale di queste quote all'interno, diciamo, dell'Unione Europea. Questi calcoli sono stati effettuati in un modo che non tiene conto della situazione attuale, nel senso che sono stati presi i numeri degli ultimi 5 anni, dal 2010 al 2015. Per esempio la Bulgaria fino al 2013 praticamente non aveva richieste di asilo, oggi invece sono aumentate in modo esponenziale e tra l'altro questi calcoli, diciamo, sono stati fatti dall'Unione, dalla Commissione Europea senza un vero dialogo con i Paesi membri. Dunque, la polemica di oggi, dicevamo all'inizio, scatenata dalla trasmissione di Bruno Vespa, la puntata di ieri con due esponenti del clan di Casamonica. Il Campidoglio accusa un oltraggio a Roma, Marino ha chiesto anche l'intervento della vigilanza Rai e invece Vespa si è difeso dicendo: questo è servizio pubblico, io faccio semplicemente il mio mestiere, faccio dell'informazione. Poi ne parleremo appunto con il vice sindaco di Roma Causi e faremo sentire la replica stessa di Vespa. Siamo sull'economia. Consumi in forte ripresa a luglio. Dall'indagine di Confcommercio risulta che i consumi hanno registrato una variazione più elevata degli ultimi 5 anni. Un risultato che non si vedeva dal 2010, segnala la Confcommercio. Consumi in crescita a luglio sul mese precedente dello 0,4%, ma soprattutto del 2,1% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Domanda interna dunque che torna a muoversi a buoni ritmi, sostenuta da un nuovo ciclo di acquisti di beni durevoli e i segnali di una ripresa in atto arriverebbero anche dal mercato del lavoro. A luglio, per il secondo mese consecutivo, gli occupati, secondo la Confcommercio, aumentano in termini congiunturali di 44.000 unità. I segni meno ormai sono archiviati, commenta il presidente Sangalli. Certo, la prudenza è d'obbligo, ma il governo deve vincere la scommessa di trasformarla in una crescita robusta, duratura, diffusa, tagliando le tasse su imprese e famiglie. La crescita dei consumi, commenta quindi il presidente del Consiglio Renzi, è un altro segno che finalmente l'Italia riparte. Da Palazzo Chigi intanto la conferma che si va verso una manovra da 25 miliardi, così il sottosegretario Zanetti. Si va verso un intervento di 25 miliardi che ha al centro il blocco delle clausole di salvaguardia IVA e l'intervento sulla fiscalità degli immobili con particolare attenzione alla prima casa. Per il rilancio del mezzogiorno arriverebbero 2 miliardi come credito di imposta per gli investimenti. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E poi per la cronaca invece c'è da segnalare questo incidente che c'è stato nella raffineria Eni di Priolo vicino Palermo. Due operai sono morti cadendo in un pozzetto. Domani ci sarà uno sciopero nella raffineria. Stavano lavorando appunto a questo pozzetto. La FIOM dice si fa poco per la sicurezza. Siamo adesso in Gran Bretagna. But I thank you all and the many others at home and overseas. Grazie a tutti per i tanti toccanti messaggi. Queste sono le poche parole che ha detto oggi la regina Elisabetta partecipando alla cerimonia di inaugurazione di una nuova linea ferroviaria in Scozia. Il record di longevità al trono di Gran Bretagna oggi ha celebrato 89 anni, insomma, la regina Elisabetta. Poi cercheremo di ricostruirne un po' un profilo e anche capire la longevità, tra l'altro proprio fisica, magari dipende da una dieta, un'alimentazione particolare. Invece adesso con il nostro Andrea Paglierini, che Andrea Pagliarini, Enrico Pagliarini. Stavi chiamando Andrea, cioè, Enrico, l'emozione non bisogna bere il vino improvvisamente a cena, così nemmeno di fronte. La birra non mi piace acqua. La birra mai bevuta bisogna birra, bere l'acqua col limone, sarà stato il limone. Enrico Pagliarini lo fissavo e pensavo Andrea figlio, uno dei figli di Elisabetta evidentemente, mentre Enrico ci parlerà delle novità della Apple, perché sono usciti l'iPad che è grande ormai con un quadro di Picasso e infatti allora, se tu prendi questo foglio A4 vedrai le dimensioni grosso modo del nuovo iPad Pro. Pro sta per professional, quindi è pensato per il mondo dei professionisti. Cioè le cose diventano sempre più grandi, come i cellulari. Prima erano dei citofoni, poi li hanno fatti piccoli piccoli. Esatto, sai come si chiamano gli smartphone, quelli grandi? No. Phablet. Perché è un mix tra phone e il tablet. Ma questa non la sapevi, eh? Sì, allora dovrebbero essere più piccoli, scusa. Se no, un mix tra tablet e il phone. E quindi sono smartphone molto grandi, che sono quasi come un tablet. Ah, ho capito. Hai capito adesso? Sì, ecco. Adesso. Comunque i tablet diventano sempre più grandi. Ci avevano provato altri, non è che l'Apple è stata la prima. Già Samsung aveva un modello 12 pollici. Il prodotto di Microsoft, il Surface, è un prodotto simile. Ma lo scopo è quello di sostituire il PC. Il computer, esattamente. Infatti questo prodotto viene venduto con una copertina che si chiama Cover, che ha integrato una tastiera e anche un pennino. Qua per tanti anni ci hanno detto usate la tastiera, adesso vorrebbero che... Però fino adesso tutti i tentativi di farci usare il pennino sono falliti. Touch. No, perché hai detto che c'è la tastiera. C'è la tastiera le due cose, fisica. Se uno vuole andare sulla tastiera, quella touch, proprio col pennino, può usare anche il pennino, però chissà, bisognerà vedere. Comunque questa è una delle novità. Apple ha fatto una presentazione che è durata 2 ore, è chiusa da pochissimo. E poi l'altra grande novità, oddio grande, hanno fatto una presentazione di nuovi iPhone. A questo punto sul mercato ci sono 5 tipi di iPhone, il vecchio 5S, e poi c'è il 6 nelle due versioni, quella normale, quella un po' più grande, e che si chiama Plus, e adesso questi 6S. Non ci si capisce più niente anche in questo caso. Comunque, in questo caso... Sentivamo il bisogno, secondo te? Non tanto. Dico solo una cosa per giustificare questa l'azienda novità. L'azienda evidentemente per guadagnare. Tutte le aziende cercano di mettere sul mercato nuovi prodotti. Allora, devo dire che una novità molto interessante è stata presentata ed è una tecnologia che si chiama 3D Touch. Tu sei abituata col tuo smartphone a toccare lo schermo, tutti quelli che hanno per ora non ce l'ho ancora. Vabbè, diciamo smartphone. Comunque quasi, sono lì, tutti quelli adesso. Dario Ricci ad esempio che qui di fianco ha lo smartphone, ecco, ho lo smartphone, ne sono orgoglioso. Ha iniziato da poco e lo vedo anche lui che tocca. Allora a destra, voi siete sinistra, abituati a toccare, ok? Allora la novità, l'evoluzione del touch, con un solo tocco si fa una determinata azione rispetto alla direzione che uno dà col dito, forza. Si può, a seconda della forza che uno imprime sul display, fare diverse azioni. Quindi bisognerà avere anche questa nuova sensibilità. Avevo detto bene allora. Sì, sei stato bravo. Sto studiando perché scarico il podcast di 2024. Bravissimo. Che è la tradizione di Enrico Pagliarini, che riprende da questo venerdì, se non sbaglio. Esattamente, sì. Domenica riprende pure Olimpia, alle 20:30. Siamo in un momento di autopromozione. Un coro di trasmissioni. Allora, Enrico, diciamo, file adesso, ma io gente non penso col sacco che dorme. Hanno detto che in Australia c'è già una persona in fila, però, c'è già una persona in fila. Sì, però questi prodotti non si possono comprare tra pochi giorni, si potranno prenotare, ma l'Italia non è tra questi paesi, da sabato, quindi si potranno prenotare tardi. Ma arriveranno tra 2 settimane. L'Italia per il momento non è, ma ci siamo abituati a questo, non è tra il gruppo di paesi del lancio. Per citare qualcuno prodotto. Ce ne faremo una ragione. Ma sì, diciamo che possiamo anche aspettare un po'. Benissimo. Diciamo, sicuramente prima di Natale arrivano. Aspettate invece fino a venerdì per Enrico Pagliarini. Ora invece abbiamo subito con noi, grazie Enrico. Ciao Enrico. Dario Ricci che invece ci aggiorna su questi successi straordinari. Non possiamo davvero aspettare italiani di sport. Una grandissima giornata di sport e per farti felice parto dalle nostre donzelle. Sì, perché tennis. Roberta Vinci aveva già conquistato la semifinale degli US Open e se la vedrà con quella Serena Williams che insegue il grande slam. Quindi insomma ostacolo quanto mai duro. Sarà una prova facile. Ma proprio di di oggi, l'impresa di Flavia Pennetta, la brindisina 33enne che ha battuto in 3 set Petra Kvitova, quinta del seeding mondiale, e ha conquistato a sua volta le semifinali, dove la semifinale dove affronterà la vincente della sfida attualmente in corso tra la romena Halep e Victoria Azarenka. Lei ha qualche possibilità in più forse rispetto a Vinci? Diciamo, tutte quelle che non affrontano la Serena Williams, un pochino se la giocano. Poi, come sai, la Pennetta è particolarmente affezionata agli US Open, dove ha ottenuto di fatto i migliori risultati della carriera negli Slam. Questo per auguriamo quanto... tennis, questo per il tennis, ma siamo freschi della bellissima impresa dell'Italia del basket agli Europei di Berlino. Dopo la Spagna ieri abbiamo battuto oggi basket maschile, maschile, certo, e abbiamo battuto la Germania in quella che era la sfida decisiva per l'accesso alla fase finale, agli ottavi di finale a Lille in Francia. Abbiamo battuto per 89-82 la Germania del grande Dirk Nowitzki, al supplementare, quindi ancora una grandissima Italia con i 17 punti di Bellinelli, 15 di Gentile, 25-9 rimbalzi di Gallinari, 17 punti, 5 rimbalzi e 2 stoppate di Bargnani. Domani ce la vediamo con la Serbia, ci giochiamo il primo posto nel girone, ma insomma dobbiamo già far festa, perché l'obiettivo finale, oltre magari a ottenere qualcosa di bello a questo europeo, è anche la qualificazione a Rio 2016. Manchiamo da troppo tempo nel basket. Sarebbe, alle Olimpiadi. Non male. Sarebbe il caso. Poi abbiamo anche il ciclismo? Ciclismo, perché abbiamo un Fabio Aru, straordinario protagonista alla Vuelta. Oggi c'è stata la crono vinta da Dumoulin, dall'olandese Dumoulin, che è la nuova maglia rossa di leader della classifica, con appena 3 secondi di vantaggio su Aru. Aru che però ora ha a disposizione altre tappe di montagna, quindi a lui favorevoli per provare a conquistare la maglia di leader e chissà, magari domenica anche la Vuelta. Straordinaria ricognizione della giornata sportiva di oggi con Dario Ricci. Grazie Dario. Grazie. Adesso, prima di lasciarci brevemente per aggiornare chi viaggia, comincio a leggere qualcuno dei vostri tanti messaggi sulla questione, l'ultimo scandalo Casa Monica, bufera su Vespa. Roberto da Verona: il funerale è una vergogna per il PD e per il governo, per questo si sono indignati. Giovanni da Bologna: Bruno Vespa ha sempre fatto schifo, fa schifo anche questa volta, come fa schifo l'Italia. E tutti voi che vedete un programma del genere. Poi Vespa ha fatto del grande giornalismo, scrive un altro ascoltatore, ci ha mostrato il vero volto del potere in questo paese, gente analfabeta che gestisce l'Italia, grazie Vespa, dice qualcuno. E poi ancora: grande Vespa, sono molto peggio i clan della sinistra che sono sempre in TV, scrive qualcun altro. E poi Vespa, dice Claudio da Roma, Claudio Caravano da Roma, Vespa ha fatto benissimo, anche perché non è stato certo accomodante con loro. Il problema qual è? Aver disturbato il processo di rimozione? Mario dice: che differenza ci sarebbe fra i Casa Monica e i nostri politici, poi tra parentesi 5 Stelle esclusi. So, questi i vostri messaggi tra il 349-238-6666, la pagina Facebook di Effetto Notte. Tra poco ne parleremo, ci saranno vari temi. Aggiorniamo chi viaggia. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Notizia giunta in questi istanti: la giunta per l'immunità del Senato dice sì agli arresti domiciliari per Giovanni Bilardi, coinvolto nell'inchiesta sulle spese pazze nella regione Calabria. A favore PD e Movimento 5 Stelle, contro il centrodestra, determinante il voto di Serenella Fucksia del Movimento 5 Stelle. E poi vi dico quali sono, se avete acceso la radio in questo momento, le altre notizie principali della giornata, poi cominciamo a arrivare un po' al cuore dei temi. Migranti, la Danimarca blocca i treni, chiude la superstrada per la Germania. Intanto Juncker, presidente della Commissione europea, dice la ripartizione permanente, questa la giusta strada. E poi bufera su Vespa per aver invitato ieri porta a porta di Casa Monica, fastidio da parte dei vertici Rai, PD dice è un oltraggio a Roma, il giornalista dice lasciateci lavorare. Ripartono i consumi, a luglio più 2,1%, mai così forti, insomma, sono andati da 5 anni, e questo lo dice Confcommercio. E poi le unioni civili, scoppia il caso Cirinnà, per ora niente dimissioni, insomma è piuttosto accidentata questo percorso accidentato del disegno di legge sulle unioni civili. E poi Napoli, 17enne ucciso, il padre dice morto anche per colpa dello Stato, chiede funerali pubblici. A Venezia anche Laurie Anderson con il suo film dedicato al compagno Lou Reed. E poi gli europei di basket, l'avete sentito, nuova impresa dell'Italia, ha battuto la Germania. Prendiamo Torniamo quindi sul grande tema dei migranti. Oggi è arrivata, l'avete sentito, la proposta del Presidente della Commissione Europea Juncker, che l'ha esposta, ha detto serve un sistema di ripartizione di quote permanente, ha detto Juncker, un sistema che ci permetterà di affrontare situazioni di crisi in modo più agevole in futuro. Europa 24 notte. Parole ferme e concrete quelle di Juncker nel primo discorso dell'Unione da Presidente della Commissione Europea a Strasburgo davanti alla plenaria del Parlamento Europeo durante l'appuntamento annuale con le grandi sfide che deve affrontare l'Unione Europea. Ha lanciato un forte appello, manca l'Unione e manca l'Europa, e ha parlato di come il vecchio continente deve affrontare la questione immigrazione. The first priority today is and must be the refugee crisis. It is a time for bold, determined, concerted action by the European Union, by its member states and by its institutions. La priorità oggi deve essere l'emergenza rifugiati e il tempo dell'azione. Dobbiamo accettare, ha detto, le persone in fuga dall'ISIS sul territorio europeo. E poi Juncker ha aggiunto, sino a quando ci sarà la guerra, nessun muro, nessuna barriera fermerà questa massa di rifugiati. Bisogna evitare la demagogia. Mettiamoci noi nei loro panni. Quanto pagheremo per rifarci una vita? Bisogna, secondo Juncker, impegnarsi in un'offensiva diplomatica per risolvere la crisi in Libia e quella in Siria. E ancora, gli standard europei, le regole sulla migrazione ci sono, ma sono gli stati membri che non le hanno applicate, ora devono rispettarle. A questo punto un forte richiamo e un affondo. Too much finger pointing in the past weeks. Member states have accused each other of not doing enough or doing the wrong thing. Molti hanno puntato troppo il dito nelle scorse settimane, gli stati membri hanno accusato gli uni gli altri di non aver fatto niente, la cosa sbagliata o di non aver fatto abbastanza. Il numero uno della Commissione Europea, poi sottolineato anche Bruxelles, è stata accusata. Lo è sempre quando gli stati non fanno il loro lavoro. Perciò la Commissione Europea propone un meccanismo di redistribuzione permanente che ci permetterà di affrontare situazioni di crisi in modo più agevole in futuro. Gli standards devono essere aumentati. Intanto, dice Juncker, dobbiamo permettere ai richiedenti asilo di lavorare, mentre le loro domande vengono trattate. The Commission, the Parliament, the Council said in the spring we need a comprehensive European agenda on migration. La Commissione, il Parlamento, il Consiglio hanno affermato che è necessaria un'agenda europea sull'immigrazione. Noi l'abbiamo proposta in maggio. Così il Presidente invita l'Europarlamento a votare il 14 settembre le nuove misure della Commissione. Italia, Grecia e Ungheria non possono essere lasciate sole. Si pensa a rafforzare Frontex, ma non all'abolizione di Schengen. La proposta è di rendere il meccanismo permanente e prevede il ricollocamento di 160.000 persone in quote obbligatorie tra gli stati, una sanzione pari allo 0,002% del prodotto interno lordo per quei paesi europei che per motivi giustificati non potranno partecipare al meccanismo europeo. La Commissione europea analizzerà i motivi notificati dal paese e deciderà se ne giustificano la mancata partecipazione al programma per un massimo di 12 mesi. In caso di partecipazione parziale alla ricollocazione, l'importo sarà ridotto in proporzione. È in gioco la credibilità dell'Europa, conclude Juncker. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Europa 24 notte. In collaborazione con Euronet Plus. E rimaniamo questo filo conduttore quindi dell'emergenza migranti con questi diversi fronti aperti o chiusi, dicevo. Quindi da una parte avete sentito il discorso di Juncker all'Europarlamento, che ha detto qui bisogna elaborare un piano di quote obbligatorie, altrimenti è chiaro che ogni paese si tira indietro. Se diciamo per una questione di volontariato, nessuno in qualche modo questa cosa conviene, anche se è stato detto più volte in questi giorni che in realtà può diventare anche una questione di risorsa economica il fatto di ospitare dei migranti che lavorano, che quindi pagano i contributi eccetera. Però lasciamo perdere per il momento questo discorso e andiamo a quello che sta succedendo concretamente in questi giorni. Quindi da una parte Juncker, la Germania che ha detto è giusta questa linea e già aveva promesso in questi giorni di accogliere almeno 500 mezzo milione di migranti l'anno e forse anche di più, e nello stesso tempo però sorge un altro muro nel cuore dell'Europa. In questo saluto Matteo Villa, buonasera. Villa, buonasera. Villa? Niente. per il momento questo muro è anche tra me e Matteo Villa, vediamo se riusciamo a recuperarlo. È ricercatore dell'ISPI per l'area Europa, Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, l'ISPI, vi dicevo, quindi quest'altro muro nel cuore dell'Europa, che è quello alzato dalla Danimarca dopo quello dell'Ungheria con mattoni, filo spinato. Adesso notizia di oggi che la Danimarca ha deciso di bloccare i propri treni, di bloccare anche la superstrada che va verso la Germania, ed è un'iniziativa che probabilmente non ci si aspettava da uno stato come la Danimarca, considerato tutto sommato uno stato avanzato, progressista, civile, tollerante. Ecco, sono soprattutto i paesi dell'est in questo momento, Ungheria, Slovacchia, Repubblica Ceca, che frenano Polonia, mentre per quanto riguarda la Danimarca è arrivata un po' così come fulmine a ciel sereno questa notizia. Vediamo se recuperiamo Villa, Matteo Villa. Non l'abbiamo ancora recuperato. L'abbiamo recuperato e quindi a questo punto procediamo con le altre notizie che riguardano appunto la questione immigrazione, con un nuovo cambio di rotta anche da parte di Orban, il presidente dell'Ungheria, che ha detto: i migranti che attraversano il confine dalla Serbia nel sud dell'Ungheria verranno caricati a bordo di autobus diretti a Gyor, a due passi dal confine con l'Austria. Quindi, mentre prima sapete che in questi giorni l'Ungheria era al centro delle preoccupazioni dell'Europa, perché aveva, fra le altre cose, a parte questo muro, anche nella stazione di Budapest bloccato i treni. Avete visto quanti profughi sono scappati nei giorni scorsi perché non volevano essere portati nei campi, appunto, per i migranti dell'Ungheria. Sono scappati a piedi verso l'Austria, verso la Germania. Adesso invece ha deciso che li porterà con gli autobus direttamente al confine con l'Austria. Matteo Villa, pronto? Ci deve essere un problema. Mi è andato l'ok. Dovrebbe essere collegato telefonicamente. Niente, è erto questo muro proprio invalicabile. Allora, intanto facciamo la pausa, vediamo se lo recuperiamo tra poco. Ci prendiamo questa pausa, voi continuate con i vostri messaggi sull'altro tema, quello dello nuovo scandalo sui Casa Monica e il fatto che Vespa li abbia ospitati ieri a Porta, ha creato nuove polemiche e diviso un po' l'opinione, sia politica sia pubblica, tra chi dice è una vergogna, uno spettacolo vergognoso, e chi invece dice è informazione, ha fatto comunque bene a invitarli. 349-238-6666 per gli sms, oppure la pagina Facebook di Effetto Notte. Pronto, amore? Amore? Amore, dove sei? Mi manchi da morire, amore. Ho bisogno di sentire la tua voce. Anche tu mi manchi moltissimo, amore. Ma proprio tanto. Guarda, per starti molto più vicino ho scritto una bellissima poesia che vorrei anche recitarti adesso. Tu manchi, provo. Quando la luna si affaccia nel cielo... Pronto? Amore? Amore? Mi sa che gli è piaciuta tanto, è svenuta. Ma una voce giusta può aiutarci a vivere meglio. Scopriamolo insieme. Voice Anatomy, il nuovo programma di Pino Insegno, io, da domenica 13 settembre alle ore 14.30 su Radio 24. E che dici? Rifaccio? Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Rieccoci insieme, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, sempre con Roberta Giordano. I vostri messaggi continuano ad arrivare sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte che al 349-238-6666. A proposito della nuova polemica sorta sul clan dei Casa Monica, Gianfranco dice: credo che la spazzatura vada buttata nella pattumiera, non portata in televisione, ma Vespa ha bisogno di fare audience e forse ha un ego troppo espanso. Poi invece un altro messaggio: Vespa avrebbe dovuto informarsi sulle gesta dell'onorata famiglia e rifletterci sopra bene prima della loro convocazione. Oramai la frittata è fatta e ora serve a poco la condanna dei più. E poi ancora sulla pagina Facebook, Domenico: sono assolutamente contrario al pensiero dei Casa Monica, ma credo che se intervengono porta a porta a dire la loro su qualcosa che li riguarda, non ci sia nulla di male, scandaloso. Le cose per cui scandalizzarsi dovrebbero essere altre. Enrico: che se non piace il programma basta non guardarlo, lui può invitare chi gli pare. In Italia si fa polemica per cavolate e non si parla di cose ben più importanti. Floriano: Vespa dovrebbe andare in pensione e dare il posto ai giovani, che avrebbero meno inciuci. E così via, molti vostri altri messaggi che leggerò tra poco, con se ci sarà tempo. E intanto, prima di addentrarci proprio dentro questo tema, vi ricordo, se avete acceso la radio in questo momento, anziché puntualmente alle 21, quali sono le notizie più importanti della giornata. Emergenza migranti, la Danimarca si isola per fermare i profughi, bloccati treni e strade per la Germania. Casa Monica in TV, polemiche contro Bruno Vespa che replica: è servizio pubblico, faccio il mio mestiere. Ripartono i consumi, mai così forti da 5 anni, lo dice un'indagine di Confcommercio. Apple a San Francisco presentati i nuovi iPhone, iPad. Elisabetta, regina da record, oggi supera i 63 anni, 7 mesi e 2 giorni sul trono della Trisavola, la regina Vittoria. Cinema a Venezia, anche il film di Laurie Anderson per il compagno Lou Reed. Per lo sport ancora show dell'Italia agli europei di basket e di Berlino. Gli azzurri hanno battuto la Germania col punteggio di 89-82 e per il tennis agli US Open Pennetta in semifinale. Dicevamo, le vicende del clan dei Casamonica, famiglia accusata di diverse attività criminali, dopo il discusso faraonico funerale del capoclan Vittorio Casamonica, vi ricordate, lo scorso 20 agosto, in stile padrino, tornano di nuovo queste vicende a scatenare polemiche. Qual è il nuovo episodio di questa saga? Cosa è successo? Ieri alla trasmissione su Rai 1, Porta a Porta di Vespa, c'è stata la partecipazione di Vera, figlia del defunto Vittorio, e Victor, nipote Casamonica, esponente appunto di questa famiglia, per parlare del caso dei funerali show del capoclan Vittorio, una puntata che ha raggiunto uno share del 14,54%, 1.034.000 spettatori. Il gruppo PD di Roma Capitale ha scritto: è stato uno spettacolo vergognoso e offensivo, pesanti critiche da PD nel suo complesso, dal Movimento 5 Stelle, da SEL. Lo difende invece Vespa Forza Italia, che dice: lasciategli fare il suo mestiere. Anche il sindaco Marino ha detto che la partecipazione a una delle trasmissioni di punta del servizio pubblico Rai della famiglia Casamonica è grave, oltre che paradossale, ha chiesto l'intervento della vigilanza Rai, ha scritto a Roberto Fico, il presidente. E poi naturalmente è intervenuto anche il vice sindaco di Roma, che abbiamo in collegamento, Marco Causi, che ringrazio di essere presente. Causi, buonasera. Buonasera a voi. Vice sindaco e deputato PD. Allora, lei già all'indomani del funerale show aveva espresso il suo biasimo, dicendo che il Campidoglio non ne aveva saputo niente di quel, nessuno aveva segnalato questo specie di spettacolo un po' kitsch. Causi, mi sente? Pronto? Pronto, mi sente? Sì, la sento, adesso la sento. Sì. Ecco, adesso ecco, la sento anch'io. Sento i rumori sottofondo, ma comunque ci capiremo. Causi, dicevo, lei aveva già espresso il suo biasimo all'indomani dei funerali di Vittorio Casamonica, dicendo che però il Campidoglio non ne sapeva nulla di questa vicenda, non è stato segnalato niente. Beh, anche il prefetto Gabrielli alla fine della sua indagine ha dichiarato che si è trattato di una mancata circolazione di informazioni fra le forze di pubblica sicurezza. Per quanto riguarda la vicenda di Porta a Porta di ieri, posso dire una cosa? Certo, certo. Allora, la mafia, Cosa Nostra, la criminalità organizzata ha sempre attratto la fantasia di scrittori, di registi, diciamo, si tratta di anche una simbologia, un linguaggio fortemente evocativo, basta ricordarsi il successo di film come Il Padrino, quindi non è difficile fare entertainment con questo tipo di anche subculture, quelle sono subculture che anche al confronto con le culture moderne di per sé suscitano una curiosità di tipo culturale. Però bisogna stare molto attenti a fare intrattenimento, perché si rischia di mettere in luce un fenomeno di tipo folcloristico, no? Di guardarlo, di pensarlo come una cosa folcloristica, quando invece purtroppo folcloristico non lo è per nulla. Basta guardare le inchieste giudiziarie, gli imprenditori, le persone che sono sotto estorsione, che hanno subito usura, violenze, e c'è una cronistoria giudiziaria di questa famiglia che è molto lunga e molto pesante. E quindi la riprovazione per l'invito di queste persone a Porta a Porta è proprio questa. Quando io sento che lo si stesso Bruno Vespa ha detto: ah, ma io ho fatto uno share che è il più alto della stagione, è questo che mi preoccupa. Non si può fare entertainment con questioni che hanno a che fare con una difesa della legalità e dello spazio civile in una città come Roma, in un paese come l'Italia, che su questo poi voglio ricordare, ci sono giornalisti, amministratori che vanno in giro con la scorta perché sono stati intimiditi e hanno subito minacce di violenza da parte di questo clan, così come di altri che purtroppo si sono radicati a Roma. Però vice sindaco Causi, Vespa, fra le varie cose che ha detto in sua difesa, ha detto: abbiamo invitato due persone incensurate, quindi la figlia e il nipote. In più ha detto: Vittorio Casamonica, cioè il defunto, ne ha combinate più di Carlo in Francia, ma non ha mai avuto un avviso di garanzia. Ecco, non è grave questo, visto che lei dice che hanno tutta una cronistoria molto particolare, eppure mai un avviso di garanzia, mai, come mai a Roma non succede? È un grande clan, basta guardare le inchieste per vedere quanti componenti di questi clan sono coinvolti, quanti beni gli sono stati anche sottratti dalla magistratura negli ultimi anni, quanti sono in libertà vigilata, quanti in carcere. Io sono un garantista e quindi, per esempio, quando c'è stata l'ondata, secondo me del tutto legittima, di sdegno e di indignazione anche popolare dopo i funerali, molti anche della stampa incalzavano affinché, per esempio, sembra che ci siano alcuni di questo clan che stanno in case popolari e quindi: ah, ma come, il comune ha dato le case popolari? Io ho sempre detto: un attimo, non è che noi dobbiamo adesso avere un atteggiamento ritorsivo, perché lo Stato italiano è uno Stato democratico di diritto, no? E quindi non si fanno ritorsioni nei confronti, si fa una battaglia per la legalità, si lasciano lavorare le forze di pubblica sicurezza e la magistratura, perché è loro il compito. All'informazione, soprattutto a quella pubblica come la RAI, va chiesta un minimo di intelligenza e di non sfruttare queste subculture che hanno degli aspetti spettacolari e quindi che suscitano una curiosità di tipo spettacolare per il loro essere diverse e appunto subculturali rispetto alle forme culturali anche di linguaggio a cui sono abituati. Però attenzione, a Roma c'è molta sottovalutazione di questo fenomeno, mi lasci dire, mentre magari se andiamo a Napoli o in Calabria o in Sicilia c'è più consapevolezza di come si fa a contrastare su un territorio l'esistenza di questo tipo di fenomeni criminali. A Roma, dove questi fenomeni sono più recenti, anche autoctoni, non soltanto importati, c'è molta sottovalutazione anche nelle classi dirigenti. Il fatto che la RAI, addirittura la RAI, in una trasmissione così importante come Porta a Porta, non si sia neanche posta il problema di dare un palcoscenico, no? a qualcosa che invece sostanzialmente le istituzioni pubbliche, di cui la RAI fa parte, sta combattendo in modo molto fermo sul territorio, e beh, questo credo che sia stato uno sbaglio, credo che sia stato un errore. Un'ultima domanda: lo sanzionerebbe lei Vespa in qualche modo? Come? Lo sanzionerebbe lei Vespa, una sospensione o qualcosa del genere? Che farebbe dopo? Ma guardi, io penso che già nel gesto che ha fatto oggi di invitare Alfonso Sabella, che vedremo, credo, assessore alla legalità di Roma, gli spettatori che vorranno vedranno nel prossimo Porta a Porta, quindi credo fra un'oretta, una intervista a due, quindi neanche nel pollaio di tutte le persone, che Vespa fa ad Alfonso Sabella, che è un ex magistrato che da alcuni mesi fa l'assessore alla legalità del Comune di Roma e sta in prima linea in questa battaglia da Ostia fino a tutta quanta Roma. Questo sia da parte di Vespa un gesto che dimostra che anche lui sa che forse ha sottovalutato questo elemento. Ripeto, mi dispiace che si pensi soltanto allo share, dobbiamo anche pensare a una battaglia che non è soltanto da affidare alle forze di polizia e della magistratura, ma che è anche una battaglia culturale. Lo speriamo, che questa battaglia vada avanti in modo incisivo, in modo forte, Causi. La ringrazio intanto, vice sindaco. Sono io a ringraziare lei e a ringraziare tutti i vostri ascoltatori. Grazie, grazie, buon lavoro. Buonasera, buonasera. Ci prendiamo una piccola pausa così aggiorniamo chi viaggia. Fluentis, il gestionale che in un'app ti guida nella crescita del business. Scoprilo, fluentis.com. Vi presenta... Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Allora, mentre un ascoltatore, ascoltatrice mi dice Priolo, non è, è in provincia di Siracusa, non Palermo, quindi non è in provincia di Palermo, ma di Siracusa, è in provincia. E poi i vostri messaggi ancora continuano sulla pagina di Facebook di Effetto Notte a proposito di quello che abbiamo appena parlato, del nuovo scandalo sui Casa Monica. Però vi ricordo intanto le notizie principali e poi così possiamo passare al prossimo tema. Tra le notizie, naturalmente, come sempre, l'emergenza migranti con Juncker, il presidente della Commissione europea, che dice che bisogna varare un piano di quote obbligatorie, non c'è altra strada per accogliere i migranti in modo equo, mentre la Danimarca però blocca i treni e chiude la superstrada per la Germania. Bufera su Vespa, ne abbiamo appena parlato, per aver invitato ieri i Casa Monica, soprattutto fastidio del vertice Rai, il PD che dice un oltraggio a Roma, il giornalista che dice faccio solo il mio mestiere. Ripartono i consumi a luglio, più 2,1%, mai così da 5 anni. E poi a Venezia c'è anche il film di Laurie Anderson, compagna di Lou Reed, un film a lui dedicato. E adesso ci dedichiamo invece alla regina Elisabetta. Facciamo con Enrica Roddolo, giornalista del Corriere della Sera, massima esperta di teste coronate, autrice di molti saggi sul tema, tra cui l'ultimo, Sì, matrimoni regali, matrimoni reali. Ciao Enrica. Buonasera. Quindi Elisabetta ha superato ogni record di longevità sul trono d'Inghilterra. Sì, assolutamente. 89 anni tra l'altro, per chi non se lo ricordasse. Sì, una bella età e si prepara il prossimo aprile a festeggiare quindi i suoi primi 90 anni, mettiamola così. Sì, oggi pomeriggio Sua Maestà Elisabetta II ha superato il record della regina Vittoria, arrivando a tagliare la boa dei 63 anni, 7 mesi e 2 giorni di regno. Un tempo infinito, pensare che ha iniziato con Winston Churchill ed è arrivata oggi con il primo ministro David Cameron, quindi ha visto passare davanti ai suoi occhi 12 primi ministri, ma quasi una decina di pontefici, insomma. Sulla macchina del tempo ha viaggiato praticamente. Sulla macchina del tempo, il sogno di tutti, davvero. Ed è una donna straordinaria. Se penso a quando l'ho incontrata a Buckingham Palace un paio d'anni fa, invitata a un ricevimento dei suoi ricevimenti estivi, perché in estate organizza sempre 2 o 3 grandi ricevimenti nei giardini di Buckingham Palace. Ecco, la cosa che colpisce è vedere quanto sia una donna in fondo molto semplice, molto understated, poco appariscente, e mi viene da pensare che forse questo è proprio il segreto della sua longevità di regno e di personalità, di carisma, perché in un mondo così affascinato dalle celebrity, da tutto quanto viene consumato velocemente, le mode, i consumi, tutto si accende, gli entusiasmi si brucia molto rapidamente, lei invece ha dosato la sua presenza negli anni ed è rimasta una costante del panorama storico, culturale ed economico della Gran Bretagna, perché è anche uno straordinario motore economico per il paese, non dimentichiamoci. Non solo della Gran Bretagna, ma del mondo, ma a parte la fama anche della sua presenza, della sua autorevolezza, ma non è che c'è qualche segreto anche alimentare per la sua longevità? Ma guarda, inossidabile proprio questa regina. Sì, ma effettivamente un paio di anni fa avevo scritto un libro che si intitolava Invito a Corte, dove indagavo proprio un pochino come si vive a Palazzo, quindi come vive anche Sua Maestà. Poi, a parte il tè delle 5, no? Lei, a parte il tè delle 5, mai. Sì, a parte il tè delle 5. E poi l'ho chiesto a Philip Mosman, che è lo chef della regina di recente, e appunto una delle passioni di Sua Maestà intanto e la carne d'agnello, per raccontare qualche curiosità. È un piatto che non manca quasi mai dal menù di Buckingham Palace, come anche il salmone. Non dimentichiamo che la regina è un'appassionata di scozze, infatti in questi giorni era per l'appunto a Balmoral, oggi stesso era in Scozia, e quindi il salmone scozzese è un classico della e quello fa bene ormai il salmone, lo dicono. E poi, come disse un suo assistente personale a uno storico britannico qualche anno fa, che appunto si domandava: ma come fa Sua Maestà a viaggiare per il mondo? Ha fatto quasi 300 visite di Stato in giro per il mondo durante tutti questi anni di regno, a non ammalarsi mai, insomma, a stare sempre perfettamente in forma. E lui svelò che insomma all'estero non mangia mai verdure crude per diciamo tranquillità alimentare, potendo evita i piccoli frutti, frutti rossi al momento del dessert, semplicemente questo perché probabilmente crea dei piccoli imbarazzi al momento delle conversazioni a tavola. Insomma, cerca di mangiare in modo morigerato e questo è il suo piccolo segreto alimentare. Non dimentichiamo che si porta sempre appresso la sua acqua minerale che arriva dalle montagne britanniche. Diretta dalle montagne britanniche. Quindi insomma, prendete appunti, in ogni caso lunga vita alla regina, grazie. Lunga vita alla regina, assolutamente. Ciao Enrica. Ciao, buona serata. E dalla Gran Bretagna subito ci colleghiamo con Venezia, dove c'è la nostra Marta Cagnola che sta seguendo i vari film. C'è già il Toto Leone, naturalmente inevitabile. Marta, lo potrebbe vincere Laurie Anderson per caso? Ma guarda, secondo me non ha tantissime chance. Certo è che dopo aver parlato della regina Elisabetta ci sta bene parlare di Laurie Anderson, perché anche lei è una regina a modo suo. Ha fatto questo film Heart of a Dog molto molto particolare, perché è un film ai confini con l'arte figurativa, un film non narrativo nel quale lei parla del senso della vita. Dedicato a Lou Reed, no? Al suo compagno. Sì, è permeato dallo spirito di Lou Reed, che è uno dei lutti che l'hanno accompagnata, come quello della madre, come quello del suo amico Gordon Matta Clark, come quello del cane, perché lei parla moltissimo della sua cagnolina e racconta di questo lutto e cosa le ha insegnato questo lutto. Un film che ha diviso, perché molti l'hanno trovato poco cinematografico, sì, e qualcuno ha detto ha sbagliato biennale, doveva essere in quella quella di arti visive. A me è piaciuto molto, ti confesso, come mi è piaciuto molto, Roberta, questo 11 minuti Jerzy Skolimowski. Il film in realtà ne dura 81, ma racconta solo 11 minuti di vita di alcune persone. Cosa succede in tutto il film? Molto poco. È solo molto molto molto concitato, alla fine però si capisce perché. La regia è formidabile, ve lo posso spiegare molto poco, perché in realtà è tutto un thriller estremamente serrato, è da vedere. Questo secondo me ha molte chance per un premio importante. A proposito di premi, io vorrei segnalarvi, noi stiamo seguendo con Radio 24 con molta passione il Soundtrack Stars Award, cioè il premio alla miglior colonna sonora. C'è una giuria bella, simpatica, con un sacco di personaggi interessanti. E magari di questo, Marta, magari ne parliamo domani, perché mi dico che siamo praticamente in chiusura. Possiamo parlare domani di questa cosa? Perfetto, dobbiamo parlarne, perché ci tengo tantissimo. A domani da Venezia, allora, Marta Cagnola. Ciao Marta, buona visione. Grazie. A dopo.